effetto notte estate. 18:34, eccoci qui in regia Valeria Bernardi, in redazione assistenza Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano, effetto notte estate, buonasera, mercoledì 5 agosto, eccoci pronti a sfogliare altre pagine del nostro diario d'estate con i fatti, le notizie, i commenti, le storie del giorno. Al microfono Andrea Ferro. Stasera ci occupiamo della tragedia di Beirut e del Libano con collegamenti e testimonianze, il punto su l'emergenza sanitaria con le misure che il governo su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico sta mettendo a punto. Ci occuperemo di un giallo dell'estate di 30 anni fa che è rimasto tale, l'assassinio di Simonetta Cesaroni, il punto sull'inchiesta sulla caserma dei carabinieri di Piacenza, gli ultimi aggiornamenti dal mondo della scuola, poi il nostro ricordo di Sergio Zavoli, scomparso ieri sera all'età di 96 anni, e poi immancabilmente l'angolo dello sport, stasera gioca l'Inter. E allora ripartiamo da Beirut, 135 morti, 5.000 feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Dispersi sarebbero ancora decine, oltre 300.000 persone sono rimaste senza casa. Danni per 3 miliardi di dollari. A provocare le esplosioni sarebbe stato un carico di nitrato di ammonio di oltre 2.700 tonnellate che era conservato in un magazzino nei pressi del porto. L'esplosivo era stato confiscato 6 anni fa dopo essere stato sequestrato su un mercantile. Ho parlato al condizionale, in realtà la causa sembra ormai certa e confermarla c'è appunto una notizia battuta poco fa dalle agenzie secondo la quale il governo libanese ha chiesto gli arresti domiciliari di tutti i responsabili dello stoccaggio delle tonnellate di nitrato di ammonio che appunto sono state all'origine dell'esplosione. Andiamo in Medio Oriente da Tel Aviv, Fabiana Magri, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Fabiana, rispetto a quello che ho appena detto ci sono aggiornamenti? C'è una conferma di quello che hai appena detto anche da altre fonti riportate dai media israeliani che citano a loro volta la FBI, fonti anonime USA del Dipartimento della Difesa e dell'Intelligence, che hanno riferito che per quel che riguarda loro non c'è stato nessun attacco da parte di uno Stato o di un mandatario e che quindi sembra proprio che la causa sia stata una conservazione negligente di questo materiale esplosivo all'interno del magazzino nel porto di Beirut. Per quanto riguarda questa nube tossica, stamattina abbiamo letto che sono stati appelli ad abbandonare l'area più colpita da questa esplosione. Com'è la situazione sotto questo profilo? Sì, il ministro della Salute Hamad Hassan continua a ripetere che chiunque abbia la possibilità sarebbe prudente che abbandonasse la città, perché questa nube tossica sicuramente potrebbe provocare danni alla salute, quindi addirittura le foto mostrano un cratere di 70 metri di diametro che si è aperto nel porto, quindi proprio le conseguenze sono evidenti, sono tangibili e anche i numeri che citavi tu dei morti, dei feriti, anche dei dispersi, degli dispersi che ancora si cercano confermano la situazione di grande emergenza. Ecco, a questo punto io ascolterei la testimonianza di Emmanuel Massar, coordinatore di Medici Senza Frontiere in Libano. The situation today in Lebanon and Beirut in particular is catastrophic today. La situazione in Libano e a Beirut in particolare è catastrofica. I dispersi sono tanti. Le operazioni di ricerca e salvataggio nella città sono ancora in corso. Si cercano persone ancora intrappolate sotto le rovine delle proprie case. Il sistema sanitario e gli ospedali di Beirut sono in grande difficoltà. Non sono in grado di curare l'enorme numero di feriti che continuano ad arrivare. Finora i dati parlano di migliaia di feriti e di un centinaio di morti, ma si tratta di numeri in costante aggiornamento. Come Medici Senza Frontiere, ieri abbiamo iniziato a raccogliere donazioni per gli ospedali in difficoltà. Stiamo poi formando gruppi di volontari che prestino soccorso ai cittadini che non possono raggiungere le strutture sanitarie. Presto sarà pronto anche un ambulatorio mobile, ma stiamo anche rafforzando il reparto di chirurgia in uno degli ospedali che gestiamo, in modo da alleggerire il carico delle altre strutture. To continue operating the patients and release a bit of the burden that is on the hospitals that are in Beirut at the moment. Fabiana Magri, oggi pomeriggio Trump, almeno oggi pomeriggio la notizia è arrivata a noi oggi pomeriggio, Trump ha detto di aver saputo da alcuni generali che invece potrebbe trattarsi di un attentato. Poi, come abbiamo detto in apertura, sostanzialmente la causa ormai certa, e a smentire Trump peraltro sono state direttamente fonti del Pentagono. Secondo te perché Trump ha osato questo? Ha aggiustato il tiro in giornata dicendo che era quello che alcuni che generali di alto grado gli avevano riferito di ritenere, quindi come se avesse riferito delle opinioni raccolte un po' a caldo. Però voglio dire, mettere in circolo un sospetto di questo genere in questo momento chiaramente avrebbe avuto un significato abbastanza pesante. Poi appunto, come dicevo, sono state direttamente fonti del Pentagono a smentirlo. Ma la reazione, la prima reazione qual è stata in Medio Oriente? All'inizio diverse ipotesi sono rincorse. La primissima forse è stata voltare lo sguardo verso Israele, quindi si è parlato di un attacco, di un possibile attacco israeliano dopo le tensioni degli ultimi giorni, ma subito Israele ha smentito ufficialmente, e anzi da ieri sta continuando le trattative direttamente per offrire aiuti al Libano, aiuti che richieste che sono offerte che sono state recepite dal governo libanese, che però non ha ancora ufficialmente risposto. Però attraverso le Nazioni Unite e l'UNIFIL sembra che insomma, le trattative stiano andando avanti. Poi c'è stato l'ipotesi del collegamento con una sentenza che è attesa venerdì da parte del Tribunale Speciale dell'ONU sull'omicidio dell'ex primo ministro Arrighi. Sì, questo, perdonami Fabiana, a questo proposito ti interrompo perché poco fa è stata battuta la notizia che dice in sostanza che il verdetto sull'assassinio del premier libanese Hariri, che era attesa appunto come dicevi il 7 agosto, è stato rinviato appunto a causa del disastro. Quindi evidentemente questo scenario è andato mutando alla luce appunto delle conseguenze di quello che è avvenuto ieri. C'era chiaramente questo collegamento che in un primo tempo era stato preso in considerazione anche per provare a spiegare quello che era accaduto appunto nel porto di Beirut. Ecco, un paese oltretutto alla fame, già in condizioni molto critiche prima che accadesse tutto questo, e c'è il problema anche delle scorte del grano che sono andate distrutte in seguito a queste esplosioni. Sì, il Libano in questo momento sta soffrendo di una crisi economica, politica, sanitaria, anche militare. Le condizioni sono davvero tremende e gli aiuti stanno e le dimostrazioni di solidarietà stanno arrivando da tutti. In Israele ci sono alcuni analisti che hanno avanzato delle ipotesi per tornare alle ipotesi che si facevano durante il corso della giornata sulle cause o comunque sui collegamenti ai fatti di ieri. Nel caso venisse confermato o provato che il magazzino avesse dei collegamenti con Hezbollah, questo secondo analisti israeliani potrebbe aprire l'ipotesi di un collegamento in questo senso sì con le azioni che Hezbollah sta intraprendendo da giorni negli ultimi giorni sul confine tra Libano e Israele. E quindi che sia stato un incidente spontaneo, che sia stato un incidente dovuto a qualche attività che era in corso, questa è un'altra delle ipotesi sul tavolo. E forse il discorso di una tralla atteso tra poco alle 20 ore locali, quindi tra un quarto d'ora, potrebbe portare qualche fare luce. Grazie a Fabiana Magri che ci ha parlato da Tel Aviv. Ci fermiamo un attimo, poi torneremo a parlare di nuovo della tragedia di Beirut. Effetto notte estate. Le 18.45, Marina Sereni, vice ministra degli esteri, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto le chiedo, notizie di italiani dispersi non ce ne sono, ce lo può confermare? Non che noi non abbiamo segnalazioni di questo genere, la nostra ambasciata è ovviamente a disposizione, ma non abbiamo segnalazioni né di dispersi né di persone che abbiano avuto danni, a parte i militari di cui già sapete, insomma, che hanno avuto dei danni lievi e che sono attenzionati. Ecco, torneranno in Italia questi militari coinvolti? Probabilmente sì, per essere curati, ma diciamo si tratta di ferite lievi e quindi insomma intanto a loro va tutto il nostro augurio, e però siamo abbastanza tranquilli. Ecco, sotto il profilo degli interventi di solidarietà concreta, lei oggi via social li ha annunciati, cosa state organizzando? Beh, noi stiamo organizzando, mettendo in movimento sia la cooperazione allo sviluppo sia la protezione civile. Lei sa che noi ospitiamo a Brindisi una struttura di emergenza che fa riferimento anche alle Nazioni Unite. Stiamo lavorando per rispondere subito con dei materiali immediati. Il nostro contingente che è lì in Libano nell'ambito della missione UNIFIL ha già messo a disposizione due team sanitari per aiutare le forze armate ripresi nell'azione di ricerca e di supporto in queste prime ore, così come abbiamo messo a disposizione una serie di assetti che riguardano la prevenzione e la protezione dal danno chimico, batteriologico, nucleare, quindi dalle conseguenze diciamo dell'esplosione nella città, che sono sempre italiani, sono assetti italiani e che sono nell'ambito della missione UNIFIL. Quindi stiamo facendo già questa azione di emergenza e stiamo lavorando per mandare al più presto dei materiali urgenti, perché appunto c'è bisogno per assistere soprattutto gli oltre 1000 feriti da questa grave e gravissima esplosione. Si profila anche un'emergenza sociale, umanitaria, scorte di cibo che scarseggiano, da ore continuano ad arrivare notizie di questo genere. Certamente, si profila una emergenza nell'emergenza, perché non dobbiamo dimenticare che il paese era già molto sofferente per una crisi economica e sociale durissima, per l'emergenza del Covid, e quindi si somma una tragedia enorme ad una situazione già molto difficile. Noi stavamo sostenendo lo sforzo del governo di Ab per avviare un percorso di riforme ed uscire da questa grave crisi. C'è un forte malessere sociale e certamente ora, con la distruzione sostanzialmente del porto e con una gravissima situazione nel centro della città, immaginiamo che tutte queste emergenze siano accentuate e aggravate. Per questo, insieme al resto della comunità internazionale, a livello di Europa ma anche oltre l'Europa, noi faremo tutto quello che è possibile per aiutare il popolo libanese oltre che le autorità libanesi. Ora, a livello di area medio orientale, si profila una situazione geopolitica molto molto delicata. Sotto questo profilo, il governo cosa intende fare? Ma la situazione nel Medio Oriente è davvero esplosiva. Noi abbiamo punti di crisi drammatici, ovviamente c'è il dramma della Libia, oggi è lì il ministro Guerini, c'è il dramma della Siria che non accenna a vedere diciamo una schiarita, e oggi c'è purtroppo questa situazione molto drammatica del Libano, che è un paese amico a cui noi vogliamo esprimere una vicinanza non solo politica ma anche concreta. Ecco, e questo sarà l'impegno principale del nostro governo nelle prossime ore. A livello di cause di questa spaventosa esplosione, chiaramente lei non mi può rispondere fino a un certo punto a questa domanda, ma io ci provo. A livello di servizi, ci sono in qualche modo segnali particolari? Non ci sono elementi particolari che facciano pensare ad un atto volontario. Il che non, ovviamente per il momento non si può escludere come sempre nulla, però in questo momento è troppo presto per poter dire, noi non abbiamo elementi per poter dire quali sono le cause di questa tremenda esplosione. Grazie Marina Sereni, vice ministra degli esteri, grazie per essere intervenuta a effetto Note Estate e buonasera. Grazie a voi. Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Tramballi, come ripetiamo dall'inizio dei nostri collegamenti sul Libano, il Libano sta vivendo una situazione disastrosa già prima, stava vivendo una situazione disastrosa già prima, un paese praticamente in ginocchio, inflazione alle stelle, il valore dei salari precipitato, addirittura per molte ore al giorno, abbiamo letto, non viene garantita la luce. Ecco, questo potrebbe essere un colpo letale. Sì, la luce non veniva garantita molto nemmeno prima, è una delle ragioni per cui non veniva garantita, perché per esempio la riforma della produzione dell'elettricità era un elemento fondamentale, di fondo, essenziale delle riforme economiche necessarie per far uscire questo paese dalla palude, come chiedeva la comunità internazionale, gli organismi multinazionali come appunto il Fondo Monetario, la conferenza di Parigi alla quale partecipavamo anche noi, era proprio la riforma del sistema della produzione dell'elettricità, e perché continuavano ad avere anche prima delle quelle che si chiamano appunto falta de luz, cioè della mancanza di elettricità costante, e la ragione era perché il monopolio dei generatori era in mano probabilmente alla famiglia Giumbada, ma comunque alla minoranza dei Drusi. E questo è uno degli esempi appunto dell'impossibilità, della difficoltà di fare quelle riforme economiche necessarie. Ora siamo tutti impegnati, come è giusto che sia, nell'aiuto umanitario per affrontare l'emergenza sanitaria di questa grande crisi, ma poi bisognerà affrontare la vera grande crisi economica, e finché non i libanesi non ci danno l'opportunità di aiutarli, noi non potremo aiutarli con quei finanziamenti necessari per delle riforme fondamentali del paese. Nello scacchiere medio orientale, quello che è accaduto ieri, cosa comporterà nei prossimi mesi? Ma niente, nel senso che il Libano non è un paese chiave dello scacchiere medio orientale, non ha materie prime, non è collocato, non ha un istmo attraverso il quale devono passare i commerci mondiali, non ha un canale, quindi il Libano è una questione a sé, è un paese bellissimo, è un paese dove c'è il più alto livello di quella che assomiglia a quella che noi definiamo democrazia, c'è un grande dibattito politico, c'è i militari stanno al loro posto, cioè nelle caserme, non occupano i palazzi del potere, certo sono un elemento del potere come lo sono in Italia, altrove, ma non sono come in Egitto, cioè non c'è un generale, certo, che governa il paese. Certo. E c'è una stampa liberissima, i migliori giornalisti arabi del Medio Oriente sono libanesi. Ecco, a proposito del paese bellissimo, è meta di turismo da tempo, e purtroppo il Covid ha picchiato duro anche sotto questo profilo, togliendo una risorsa che avrebbe in qualche modo potuto un po' calmierare questa situazione disastrosa sotto altri profili. Beh, tutti noi consideriamo il 2020 come un anno da dimenticare, quando guardiamo allo scorso Capodanno, viva il 2020, così si fanno delle battute sui social. Per il Libano è peggio che per noi, peggio del peggio, cioè perché c'è un insieme sovrapporsi di Covid, c'è la crisi finanziaria, c'è una guerra strisciante di nuovo la crisi alla frontiera tra Israele e Libano, cioè fra Hezbollah e Israele. È aumentata notevolmente la tensione, stanno facendo quelle specie di prove tecniche di nuovo conflitto dopo quello del 2006, e quindi la situazione è spaventosa. Alla fine è arrivata anche questa esplosione, che certamente non abbiamo mai visto durante i 15 anni di guerra civile, un'esplosione di questo genere, ma di distruzioni ne abbiamo viste anche di più, è tutto naturalmente comparabile, però io ricordo negli anni 80 quando appunto ero a Beirut e seguivo la guerra civile, che era la fase peggiore della guerra civile, quando tutti combattevano contro tutti, il centro della città era completamente distrutto, quartieri interi della città, della periferia al centro erano completamente distrutti, dipendeva da dove si combatteva. Certo, esplosione di questo genere, nessuno possedeva allora 750 e passa tonnellate di quella roba, però non avevano aviazione come in Siria, però le milizie, quelle che ancora oggi poi si sono messe d'accordo ma continuano appunto a governare il paese, cioè i leader, gli ex signori della guerra, diciamo, ancora oggi governano e però appunto non riescono ad uscire da questa sindrome del potere tribale. Cosa mi dici di questa sparata di Trump? I generali mi dicono che è stato un attentato, che forse è stato un attentato. Beh, io oramai sbaso le mie opinioni sulle cose, ascolto prima Donald Trump, poi quando Donald Trump dice una cosa mi convinco del contrario, probabilmente è la cosa più sana, che cioè i suoi giudizi e la sua capacità di valutare le cose, la sua incapacità di fermare le sue reazioni istintive trasformano la politica estera. Cioè, il presidente degli Stati Uniti, che fosse democratico, che fosse repubblicano, ha sempre avuto, poi magari anche sbagliavano, ma ha sempre avuto una sua gravitas. Ascoltare Donald Trump è come ascoltare la massaia di Voghera, con tutto il rispetto per le massaie di Voghera. Però, appunto, lo dice il presidente dello Stato più potente, è inevitabilmente smentito dal sì, sì, sì, sì, sì, ma inevitabilmente ha suscitato comunque in un primo tempo qualche reazione. Israele continua a dire noi non siamo coinvolti, c'è un'agenzia ancora ora, tende a ribadirlo praticamente ogni ora. Beh, non per riabilitare Donald Trump, ma comunque certo, parliamo sempre del Libano, dove i potenziali colpevoli di qualsiasi cosa sono sempre tantissimi. Quindi in Libano c'è sempre un punto di domanda su qualsiasi cosa avvenga. Però ecco, io non credo che un attentato di questo genere, cioè una bomba come quella che abbiamo visto, un'esplosione come quella che abbiamo visto ieri, non serve a Israele. È vero che Israele ha raso solo metà Libano durante il 2006, durante la guerra. Era una guerra. Hezbollah aveva provocato Israele uccidendo soldati e rapendone altri. Hezbollah non avrebbe interesse, siamo vicini al verdetto, sì, che è slitta slitterà, però sì. Insomma, diciamo, prima dell'esplosione era imminente, certo. E anche Hezbollah nessun interesse per un attentato nel quale possono morire 200, 300, 400 civili libanesi. Solo una mentalità come quella di ISIS può pensare di fare un attentato di questo genere. Ecco, quindi io penso che non, che questo sia il frutto appunto dell'inesistenza dello Stato libanese, cosa che non è mai esistito veramente. Grazie, quindi... grazie Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. Sono le 18:58 ormai, ci fermiamo per il GR delle 19, poi torniamo insieme con Effetto Notte Estate. Finalmente si va al mare, si va al mare! Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio! Sono qui nella tua auto nuova! Non te ne eri accorto? Veramente no! Ecco, fanno tutti così, tramonto mozzafiato, ragazza accanto, e non sanno che possono ascoltare la radio con il DAB Plus! Se vuoi un'estate magica, scopri il suono perfetto della Digital Radio. Nella tua auto potrebbe già esserci. Controlla bene se hai la funzione DAB Plus. Da quest'anno di serie in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Emozioni nuove, libertà assoluta. Guarda al futuro con Ecobonus Peugeot. Ad agosto partono gli incentivi statali e Peugeot li moltiplica sulla gamma fino a 9.000 euro di Ecobonus. Per tutti, info su peugeot.it. Peugeot. In questi mesi abbiamo compreso il valore della parola indispensabile. Anche la spesa lo è. Per aiutare la comunità, da Conad aggiungiamo fino al 31 agosto centinaia di prodotti indispensabili a prezzi sempre bassi e fissi. Mai così tanti, mai così a lungo. Conad, persone oltre le cose. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Chi ha un libretto smart adesso può rendere i propri risparmi dei super risparmi, attivando online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. Chi non ha un libretto smart può aprirlo, attivare l'offerta solo online da app BancoPosta e Poste.it e a scadenza riceverà un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. I buoni e i libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Effetto notte estate. Le 19.13 di nuovo, buonasera ad Andrea Ferro, riapriamo il diario della giornata e ci occupiamo ora dell'emergenza sanitaria. Beh, avete sentito nel GR che sono tornati a salire i contagi, nelle ultime 24 ore sono stati 384, praticamente rispetto a ieri sono raddoppiati, 10 le vittime, anche in questo caso il doppio rispetto al giorno precedente, solo una regione senza nuovi casi ed è la Valle d'Aosta. E allora ne parliamo con Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, membro italiano del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Buonasera Ricciardi. Buonasera. Buonasera. Allora, è in corso da oltre tre ore la riunione del Comitato Tecnico Scientifico e al centro, diciamo così, all'ordine del giorno c'è la questione trasporti, in vista anche del prossimo DPCM che dovrebbe essere varato entro la fine della settimana. Un nodo particolare riguarda i treni, si parla di una distanza di un metro anche sui regionali, è così? Ma non so quale sia stata la decisione, però è sicuramente l'evidenza scientifica che senza questa distanza il trasporto non è sicuro. Quindi immagino che i colleghi abbiano consigliato, diciamo, i politici, quindi i responsabili, di prendere delle decisioni sia a livello nazionale che a livello locale, tenendo presente che è necessario all'interno di ambienti chiusi stare a una distanza di almeno un metro e naturalmente indossare la mascherina. Le regioni però potrebbero dire: da noi funziona diversamente, come sta accadendo peraltro. Se ne assumono tutta la responsabilità e vediamo che questo ha delle conseguenze abbastanza immediate, perché i trasporti, così come gli ambienti di vita e di lavoro, sono quelli in cui appunto il virus continua a circolare. Se noi l'abbiamo tenuto sotto controllo è perché siamo stati particolarmente attenti. Allentare misure di sicurezza come quelle che le ho appena descritto significa automaticamente favorire la circolazione del virus e quindi vedere abbastanza prontamente, nell'arco di una settimana, 10 giorni, il riaumento dei casi. La questione aerei, anche qui si è detto si torna all'inizio, cioè il distanziamento un posto sì, un posto no, poi pare però che le lobby delle compagnie aeree abbiano avuto il sopravvento e in qualche modo non cambierebbe nulla. No, è diverso, perché c'è un documento molto rigoroso dal punto di vista scientifico delle autorità per la sicurezza aerea internazionale, sia quella europea che quella americana, che fa capire come il condizionamento e la circolazione dell'aria a bordo degli aerei sia completamente diverso rispetto a quello del trasporto a terra. Lì c'è praticamente un ricambio dell'aria che avviene ogni 2-3 minuti e ci sono dei filtri EPA molto rigorosi, quindi è chiaro, non è di per sé il trasporto aereo essere pericoloso, è il modo con cui viene gestito, ma direi che il rischio è soprattutto quando ci si imbarca, quando si sbarca, in quelli sono i momenti più a rischio. Ma durante, diciamo, il trasporto, se i voli sono lunghi bisogna cambiare la mascherina ogni 4 ore, se i voli sono più brevi è importante indossarla e naturalmente stare in aerei e in compagnie che rispettano queste regole di sicurezza. Qui a effetto notte estate ce ne siamo occupati ieri, le crociere, anche qui ci sarebbero delle novità imminenti, in sostanza le navi potrebbero riprendere il largo. Ma ritengo soltanto quelle ovviamente nazionali, cioè le crociere che fanno scalo nei nostri porti, perché di fatto negli altri porti del Mediterraneo la situazione è tutt'altro che fuori che sotto controllo, quindi abbiamo dei porti nel Mediterraneo che fanno scalo in paesi in cui la epidemia in questo momento è, non dico senza controllo, ma comunque con una crescita enormemente superiore rispetto all'Italia. Quindi ritengo che questo possa avvenire soltanto per le crociere che fanno scalo nei nostri porti. Torniamo in terraferma, discoteche, anche questo è un nodo da sciogliere, però mi sembra che resteranno chiuse, no? Ma il discorso vale per tutti gli ambienti che non consentono il distanziamento. Non siamo ancora in una condizione di assenza di circolazione che consente di stare tranquilli, a maggior ragione all'interno degli ambienti chiusi, a maggior ragione negli ambienti in cui ovviamente si balla, si canta, si suda, si respira in maniera forte. Quindi queste sono esattamente le modalità con cui il virus viene trasmesso. Il raddoppio dei contagi che abbiamo registrato nelle ultime 24 ore è, usando un'espressione certamente non appropriata, fisiologico. Anche la scorsa settimana ci sono state delle punte di questo tipo e poi un calo magari nei giorni successivi, oppure va letto in una maniera diversa? No, è un segnale di attenzione quello che stiamo vedendo adesso sono i risultati del comportamento dei passati 10-14 giorni. Se noi allentiamo l'attenzione, i comportamenti, vedremo degli aumenti. Se invece riprendiamo, e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone lo fa, ma c'è purtroppo una minoranza abbastanza attiva che non lo fa, ecco, se questa minoranza non si comporta responsabilmente continueremo a vedere un aumento dei casi. La situazione internazionale a partire dall'Europa resta molto delicata, il vice ministro Sileri ha parlato di chiudere eventualmente anche le frontiere. Ma dipende dai paesi, perché chiaramente ci sono dei paesi in cui la situazione è preoccupante. Abbiamo visto la Spagna, abbiamo visto i Balcani, abbiamo visto la Romania, ci sono paesi come la Germania in cui la situazione è più sotto controllo. E purtroppo questo è un virus ubiquitario, circola dappertutto, la differenza la fa soltanto il comportamento delle persone e naturalmente delle autorità governative. Dove i singoli e le organizzazioni si comportano bene, viene in qualche modo ridotta la circolazione, non eliminata, perché questo lo vedremo soltanto con il vaccino. Grazie a Walter Ricciardi per questi aggiornamenti. Ci siamo concentrati in particolare sul mondo dei trasporti perché è una questione di stringente attualità. Lo ricordo, Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, membro italiano del Consiglio Esecutivo dell'OMS. Facciamo un passo indietro a qualche giorno fa, quando cioè è stato presentato lo studio del Ministero della Salute in collaborazione con Istat e Croce Rossa, che ha sottolineato come solo il 2,5% della popolazione, equivalente a 1.482.000 italiani, ha avuto un contatto con il virus in 4 mesi di pandemia, un numero che è ben lontano dalla immunità di gregge di cui tanto si parla. In linea con noi c'è Luca Richeldi, componente del CTS, appunto il Comitato Tecnico Scientifico, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente della Società Italiana di Pneumologia. Buonasera. Buonasera a lei. E allora, prima di arrivare a parlare di immunità di gregge, visto che è in corso la riunione del Comitato Tecnico Scientifico, c'è qualche novità? No, non ci sono novità particolari e comunque si sapranno a breve, eventualmente, quando il Comitato Tecnico Scientifico riporterà i propri pareri al Ministro. Comunque non eravamo lontani prima, quando ne parlavamo con il professor Ricciardi, sostanzialmente c'è questa stretta sui treni, ci provo? Ci può provare, ma è andata male. È andata male, vabbè, io faccio il cronista, ci provo. Riproviamo. Beh, no, mi fermo perché ho capito che non posso torchiarla. Parliamo di immunità di gregge. Si è fatta un po' di confusione in questi ultimi tempi, sì. No? Sì, nel senso che soprattutto il fatto che alcuni paesi, in particolare l'Inghilterra, che è un po' la patria della medicina e anche delle malattie infettive, avesse inizialmente dichiarato che si voleva raggiungere a breve un'immunità di gregge, seguita anche da qualche altro paese come la Svezia, ha creato molta diciamo disorientamento, perché a quel punto le persone hanno pensato: allora ci infettiamo tutti e arriveremo a un punto in cui la maggioranza delle persone avranno una protezione immunitaria e il virus circolerà di meno o cesserà di circolare. Chiaramente poi l'Inghilterra ha lasciato rapidamente questa ipotesi, in particolare quando il primo ministro si è ammalato. La Svezia, anche loro sono tornati indietro e diciamo ieri noi, come la Spagna e come altri paesi, hanno avuto la prova provata che siamo lontanissimi da un'eventuale immunità di gregge anche in uno dei paesi più colpiti d'Europa come il nostro. Quindi come leggiamo questi dati nell'ottica dell'autunno che viene, speriamo di no, della possibile seconda ondata? No, noi li dobbiamo leggere con tutta la calma e con tutta la freddezza che ci dà un dato scientifico. Un dato scientifico che ci dice intanto che c'è stata una circolazione eterogenea sul territorio nazionale, questo ce ne eravamo già accorti, e certamente è un motivo di ulteriore cautela per quelle zone in cui c'è stata una circolazione molto molto ridotta. Poi ci dice che, questo è un dato molto importante, un terzo almeno delle persone che sono risultate positive al test non ricordano di aver avuto nessuna forma clinica e quindi sono i famosi cosiddetti asintomatici, e anche questo ci porta a confermare un dato che era stato generato, ricordo, a voi Euganeo dallo studio del professor Crisanti, che si conferma e che ci dice che ci vuole una particolare attenzione anche alle persone che non hanno sintomi, perché non sappiamo quanto siano contagiose, ma certamente sono portatori del virus perché fanno una risposta immunitaria. La terza cosa che ci dice è che la distribuzione agli estremi dell'età pare essere ridotta rispetto alle aree centrali, cioè i bambini sotto i 5 anni, le persone anziane sopra gli 85 sembrano avere dei tassi più bassi, ma questo potrebbe essere un effetto falsato dal fatto che queste categorie di persone sono rimaste più protette rispetto all'esposizione al virus. E questo è un dato interessante anche perché siamo non proprio nell'imminenza, però tra una quarantina di giorni inizieranno le scuole. I dati sui bambini appunto ci dicono che sostanzialmente il virus circola di meno, ma c'è il problema chiaramente degli asintomatici, quindi un assembramento di esatto. minori potrebbe chiaramente veicolare il virus. Sotto questo profilo bisogna stare molto attenti, secondo lei comunque la scuola può riaprire? Ma io credo che la scuola sia una priorità della nostra società, soprattutto rispetto ad altre attività. La scuola va riaperta, semplicemente va riaperta seguendo dei protocolli che garantiscono il massimo della sicurezza. Quindi questi protocolli che il Ministero dell'Istruzione, insieme al Ministero della Salute, ha cominciato a studiare ormai molte settimane fa, saranno pronti per la ripartenza e io sono fiducioso del fatto che verranno rispettati e quindi saranno efficaci per contenere eventuali epidemie o focolai all'interno delle scuole che ovviamente porrebbero dei problemi particolari. Grazie, la ringraziamo per essere intervenuto a Effetto Notte Estate. Luca Richeldi, componente del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente Società Italiana Pneumologia. E ora andiamo all'estero, andiamo in Belgio. Beda Romano da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto ti chiedo la situazione dei contagi in Belgio. C'è stato un aumento nelle ultime settimane e dopo un po' di tira e molla da parte delle autorità belghe, il governo federale ha deciso un giro di vite e ha stretto alcune regole, in particolare ha imposto la mascherina all'esterno in alcune vie, quelle più commerciali, e ha deciso anche di ridurre il numero di persone che una famiglia può incontrare nel corso della giornata. Ho letto, questo quindi, è molto curioso, addirittura c'è che passa da 15 a 5, mi pare. Esattamente, da tempo, in altre parole, da marzo, il Belgio ha seguito questa regola, che è quella di limitare il contatto che una famiglia può avere nei confronti dell'esterno. La cifra era salita a 15 tra giugno e luglio. A questo punto, visto l'aumento dei contagi nelle ultime settimane, è stata ridotta portandola da 15 a 5. Quindi praticamente è come la borsa segue l'andamento dei contagi in maniera voglio dire precisa, al punto da determinare appunto aritmeticamente le conseguenze. Poi c'è un'altra questione che ha suscitato anche un po' di critiche, ha fatto discutere, e appunto accennavi alla mappa della città con il perimetro delle zone rosse. In buona sostanza bisogna girare a Bruxelles con una piantina e sulla base di quello che è scritto in questa piantina ti metti o meno la mascherina, è così? Il governo federale ha deciso che bisogna usare la maschera all'esterno nelle vie più commerciali e nelle vie dove vi è un'alta concentrazione di persone. Allora i comuni si stanno adoperando per selezionare le vie coinvolte da questa misura e Bruxelles ha una sua particolarità, è la capitale del Belgio ma è in realtà un insieme di 19 comuni e quindi ogni comune deve selezionare le vie che considera commerciali o ad alta frequentazione di persone, con il risultato però che la città è molto policentrica, ogni comune che compone Bruxelles ha in realtà un proprio centro, con il risultato è che vi sono parecchie vie che vengono considerate probabilmente giustamente ad alta frequentazione di persone e che vengono quindi selezionate come zone in cui utilizzare le mascherine. Quindi c'è stata però un po' di confusione e questo ha generato parecchie critiche, ho letto in giro anche un po' di ironia. Sì, ho letto anch'io. Non lo so francamente se siano legittime queste critiche. Il Belgio fin dall'inizio ha cercato di avere un atteggiamento il più liberale possibile, fa parte della sua storia politica e anche economica. Quindi anche nel momento in cui l'epidemia era particolarmente pericolosa e mortale, non ha imposto un confinamento radicale come è avvenuto in Italia o in Francia. Non vi è mai stato bisogno di una particolare autorizzazione per uscire, ha sempre cercato di indurre le persone a rimanere a casa il più possibile, ma senza misure particolarmente restrittive. E in un certo senso sta seguendo la stessa tendenza anche in questo caso. In altre parole, non ha imposto la mascherina all'esterno, in tutte le vie, in tutte le piazze di tutte le città del Belgio, ma soltanto in quelle vie commerciali dove la frequentazione è particolarmente elevata. Grazie Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, grazie, buonasera. Arrivederci, grazie. Grazie, e allora le 19:29 stanno per incombere le borse, e quindi ci fermiamo un attimo, poi torniamo insieme con Effetto Notte Estate. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Notte Estate. È il 7 agosto 1990, Roma, via Carlo Poma, quartiere Prati. Poco prima della mezzanotte, in un appartamento al terzo piano dell'edificio al numero 2, viene trovato il corpo senza vita di Simonetta Cesaroni. Era nuda, nessuna traccia di violenza sessuale. Con un coltello l'assassino aveva infierito 29 volte, dirà l'autopsia. Simonetta aveva 21 anni, abitava a Roma in zona Palmiro Togliatti, lavorava come impiegata per conto di uno studio di commercialisti. Tra i clienti di questo studio c'era l'Associazione Italiana Albergatori della Gioventù, che in quell'appartamento di via Poma aveva la sua sede. Lì Simonetta si recava alcuni giorni alla settimana per tenere la contabilità. La tragica fine di Simonetta Cesaroni diventa il giallo dell'estate, di quell'estate di 30 anni fa, e resta un giallo, perché il caso, come si dice, resta insoluto. Nonostante varie piste seguite nel corso del tempo dagli investigatori, nonostante un processo a carico dell'ex fidanzato Raniero Brusco, prima condannato a 24 anni e poi assolto in appello e in Cassazione. In mezzo una mezza dozzina di indagati, tutti prosciolti, tra di loro il portiere dello stabile di via Poma, Pietrino Vanacore, che inizialmente fu anche arrestato, passò 26 giorni in carcere, poi fu scarcerato. Nel 2010 Vanacore si è ucciso alla vigilia della sua deposizione al processo contro Brusco. Una storia quindi costellata di presunti misteri, ombre, piste e ipotesi anche piuttosto fantasiose. Ne parliamo con Federica Mondani, legale dei familiari di Simonetta Cesaroni. Buonasera. Buonasera a voi. Ne parliamo con Antonio Del Greco, ex dirigente della sezione omicidi della squadra mobile di Roma. Buonasera anche a lei. Buonasera. E buonasera Massimo Lugli, storica penna di nera della Repubblica, Cronaca di Roma. Buonasera. Buonasera a voi che ci ascolta. Allora, avvocato, ieri lei ha detto l'omicidio di via Poma rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, serve un segnale da parte della procura e in sostanza bisogna riaprire l'inchiesta. Perché? Bisogna riaprire l'inchiesta perché, come ho detto, è una sconfitta di tutti, è una sconfitta innanzitutto dello Stato, del sistema giudiziario, è una sconfitta di chi ha lavorato per molti anni, per chi ha investigato, è una sconfitta di noi avvocati che ci siamo dedicati, è una sconfitta, e quindi sarebbe giusto che il fascicolo fosse ripreso in mano con una buona e straordinaria volontà da parte della procura, che si rimettesse la testa a quelle carte, perché è nelle carte che poi si possono trovare le risposte. Antonio Del Greco, mi racconta quella sera del 7 agosto 1990, riceve una telefonata? Sì, ricevo una telefonata da parte dei miei uomini che mi dicono appunto di aver ritrovato il cadavere di questa ragazza in via Carlo Poma. Quindi giunto sul posto ovviamente trovo la scena del crimine un pochettino confusa, perché i parenti, datore di lavoro con i figli e fidanzati sono entrati dentro, hanno toccato, hanno aperto, e non solo loro, anche gli agenti della volante successivamente intervenuti. C'era anche un funzionario dei servizi, è vero? Ma no, c'era un funzionario del reparto volanti che poi soltanto dopo una quindicina d'anni poi transitano questa, i servizi. Questa qui è un'altra fake questa che è circolata. Questa è l'ennesima bufala che è stata messa in giro in relazione a questo episodio. Quindi diciamo il cadavere di Simonetta viene trovato così, riverso a terra, pancia in su, con 29 di stilettate, probabilmente date con un tagliacarte a sezione circolare. Che non è mai stato trovato, non è mai stato trovato. Ma diciamo ne abbiamo trovato uno nell'ufficio similare, quindi potrebbe essere stata un'arma o quella oppure un'altra simile che si è portato via l'assassino. Che si è portato via, oltre a alcuni gioiellini che la ragazza portava con sé, si è portato via le chiavi, richiudendo poi l'appartamento con 4 mandate. Massimo Lugli, secondo te chi è stato ad uccidere Simonetta Cesaroni? Questa è la domanda da milioni di dollari. Io un'idea ce l'ho, ovviamente non la posso dire con Rampopoli perché rischio una querela da 5 milioni di euro e vorrei evitarla. Beh, posso dire comprendo, questo. Io comprendo. Penso che la polizia sia arrivata vicina alla verità e penso che, come dice giustamente l'avvocato che rappresenta la famiglia, la verità è nelle carte. La verità ha una rilettura attenta delle carte e forse con altri scontri di prova potrebbero anche arrivare dalle nuove tecnologie. Ricordiamo che il caso dell'Olgiata, anche lì la verità era nelle carte, era l'anno successivo e fu risolto dopo 20 anni, quindi secondo me non è impossibile. Non è impossibile. Allora, non potendo fare nomi, per ovvi motivi, però dico una cosa, come accade spesso, seguendo la teoria del rasoio di Occam, la verità è la più semplice. Qui non ci sono state dette di tutto, i servizi segreti, oscuri misteri, serial killer, addirittura collegato ad altri delitti. Tutte bufale. La realtà è un delitto piuttosto semplice, un delitto passionale, a sfondo sessuale, sicuramente di qualcuno che conosceva la ragazza o comunque frequentava il palazzo o comunque ci abitava, per esempio, aiutato da qualche un altro, e siamo in un ambiente chiuso, è un giallo la Poirot, l'assassino in questa stanza. Pensare a un esterno o a una copertura o a una messa in scena, secondo me, vuol dire comportarsi da romanziere, non da analista, scrittore, criminologo, avvocato, quello che sia. Antonio Del Greco, che lo ricordo era il numero uno della sezione omicidi della squadra mobile di Roma, anche lei ha un'idea, ho letto in una recente intervista, molto chiara. Sì, io ho un'idea che sicuramente il portiere, purtroppo pace all'anima sua, racchiudesse dentro di sé dei segreti importanti. Intanto non ha mai spiegato dove fosse quella sera del 7 di agosto alle ore 18. Mi ha raccontato sempre tantissime bugie al riguardo e diciamo per certi versi l'ha fatta franca, perché a seguito del provvedimento restrittivo emesso dal pubblico ministero e confermato dal giudice delle indagini preliminari, lui fu rimesso in libertà dal Tribunale della Libertà. Quindi diciamo ci trovavamo un po' spiazzati da questa sentenza che ci fece ripartire nuovamente da capo. Quindi lui secondo noi investigatori è sicuramente il depositario della verità, ecco. Federica Mondani, legale dei familiari di Simonetta Cesaroni, tra le carte ci sono perizie fatte male? Tra le carte c'è molto e questo dà l'idea di come l'omicidio di Simonetta sia un omicidio e sia stato un procedimento e poi un processo complesso. Ci sono cose fatte male, senz'altro. Cosa in particolare? Ma ad esempio lo ha detto anche il nostro Del Greco, lui arrivò e trovò una situazione già inquinata, se vogliamo, no? Familiari, datori di lavoro dentro la stanza del crimine, bene, tutto questo complica poi le cose per chi deve fare le indagini. Quindi sicuramente in una prima fase ci fu un atteggiamento un po' approssimativo per certi versi. Poi ci sono invece diversamente delle cose fatte molto bene, ci sono degli investigatori che hanno lavorato bene, ci sono degli investigatori che hanno lavorato con passione, che non hanno trascurato nulla. Poi c'è stato un processo, come sappiamo, nel processo anche abbiamo assistito a dei momenti di buona giustizia, abbiamo assistito a dei momenti dove si poteva fare di più, periti nominati che non avevano una grossa specializzazione per la questione sulla quale ci si doveva esprimere. Questo per dire cosa? Per dire che è un procedimento molto complesso che ha visto quel coinvolgimento di molti soggetti, ma già il fatto che esperti, anche quelli che voi oggi avete convocato, facciano comprendere che hanno delle idee, giuste o sbagliate, ma delle idee chiare su chi possa avere avuto a che fare con questo omicidio, già questo fa capire come e confermare come all'interno di quelle carte una verità si può trovare. Lulli, a Roma, quando un caso non si chiude, dopo un po' entra immediatamente la banda della Magliana, c'è il riferimento ai servizi, quasi che si tratti ormai di un brand collegato a Roma Criminale. Tutto in qualche modo alla fine viene fatto ruotare attorno a questi ambiti. Sì, per la carità di Dio, la banda della Magliana in questo caso secondo me non c'entra neanche, e posso parlare a titolo personale, con la vicenda Emanuele Orlandi. Di questo io ne sono convinto. Dopodiché è facile, perché ci sono alcuni investigatori, e non parlo di poliziotti, tanto per essere chiaro, che quando non riescono a cavare un ragno dal buco, che fanno? Si aggrappano ai servizi segreti collegati con la banda della Magliana tramite Toni Picchiarelli, quindi è impossibile scoprire la verità. Fu fatto anche con Loggiata, Michele Finocchi, le cose, eccetera, e poi si scoprì che l'assassino era il maggiordomo, neanche un giallo di Agatha Christie. In questo caso, da cosa viene l'equivoco? Dal fatto che la Reali SAS, che era poi lo studio commercialista dove la povera Simonetta lavorava, gestiva, amministrava alcuni palazzi, e questi palazzi erano di competenza, come direbbe Antonio De Greco, dei servizi segreti. Quindi i servizi, Simonetta aveva scoperto chissà che, gli hanno zappato la bocca, eccetera. Ma bisogna avere una grande fantasia per una cosa del genere, perché Simonetta andava lì a fare un lavoro molto semplice, a inserire dei dati. Mi dilungo un attimo, proprio un momento, prego. Su quello che ha detto l'avvocato prima, l'indagine fatta male, perciò, eccetera. Ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di 30 anni fa, che sono mezzi di indagine rudimentali, che il concetto stesso di freezing the zone, cioè congelare la scena del delitto, non è entrato in vigore, e comunque chi entra non è che entra per trovare un cadavere, entra per trovare una ragazza, quindi giustamente sposta tutto, non è che pensa che lì c'è Simonetta morta. E comunque tante cose non c'erano, la sua polizia scientifica aveva un ruolo molto diverso da quello che adesso, scientifica, carabinieri, tutto quanto. Quando venne riaperta l'indagine, poi si puntò sul fidanzato, si tentò questo, di risolvere alla luce delle nuove tecnologie un caso che non si era risolto, partendo soltanto dall'evidenza scientifica. Risultato, un orrore giudiziario, perché non ho peli sulla lingua a dire che il processo a Raniero Busco non è stato un errore, è stato un orrore, perché era su indizi totalmente impalpabili, e ha avuto l'unico risultato di allontanarci sempre di più da noi Zacchi, chissà quando e se verrà mai alla luce. Antonio Del Greco, lei ha trattato 112 omicidi, ho letto, questa sì. È la sconfitta più cocente? Beh, sicuramente sì, tra l'altro poi è l'omicidio più importante, quindi è l'omicidio per eccellenza, anche se sembra uguale a tanti altri, ma in realtà è diverso da tutti gli altri. Quindi è un omicidio che mi ha colpito, primo perché si tratta di questa ragazza, una ragazza giovanissima, una ragazza per bene, poi maltrattata anche dalla stampa, fatte congetture, detto di tutto e di più su di lei, una ragazza che portava il panino dentro la borsa perché non si azzardava neanche ad uscire per andare al bar. Quindi diciamo, è quello che più mi ha colpito. Poi questa famiglia, i genitori, il papà che veniva spesso a trovarmi in ufficio per sentire se ci fossero delle novità, quindi diciamo è l'omicidio che mi ha colpito di più, vero, tutti i sensi. Avvocato Mondani, al di là delle dichiarazioni di ieri, dalla vostra parte c'è intenzione di assumere iniziative concrete? Ma guardi, questa possibilità non l'abbiamo mai esclusa, chiaramente è una possibilità viva che valutiamo ogni giorno, ogni momento. È anche chiaro che per un processo così complesso non sarei onesta a dire che la famiglia, solo una famiglia non accompagnata dalle istituzioni, possa riuscire ad avanzare, a riaprire qualcosa di rilevante. La famiglia ha bisogno della procura, la famiglia ha bisogno delle istituzioni, e insieme sicuramente il processo di approfondimento può essere più facile e magari questa volta compiuto. Questa è anche la speranza della famiglia. Grazie a Federica Mondani, legale dei familiari di Simonetta Cesaroni. Grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Grazie ad Antonio Del Greco, ex capo della sezione omicidi della squadra mobile di Roma, buonasera. Buonasera, grazie. E grazie a Massimo Lugli, giornalista di Repubblica. Buonasera, grazie. E ora andiamo a Piacenza, l'inchiesta sulla caserma Levante. Giorgio Lambri, capo cronista della Libertà, il giornale di Piacenza, è a breve collegato con noi. Lo abbiamo tirato in ballo perché si parlava di una svolta imminente nelle indagini, si diceva del possibile allargamento dei coinvolti e eventualmente anche di nuovi provvedimenti restrittivi. Poi questa svolta non c'è stata. Nel frattempo stiamo cercando di perfezionare il collegamento telefonico con Lambri, e allora diamo un'occhiata alle agenzie per attendere appunto che si perfezioni questo collegamento telefonico. Da Beirut non ci sono novità rispetto a quello che abbiamo detto in apertura: 135 i morti, quasi 5.000 i feriti, il bilancio però è provvisorio perché ci sono ancora decine e decine di dispersi, una situazione gravissima anche sotto il profilo dell'inquinamento ambientale. La nube che si è alzata dopo le esplosioni di ieri ha provocato quindi anche delle conseguenze sull'aria. Il ministro della Salute stamattina ha invitato i cittadini di Beirut a, se possibile, a lasciare appunto la capitale libanese. Una situazione, ripeto, in evoluzione. I numeri che vi ho dato sono numeri provvisori, la nostra scaletta in qualche modo subisce una variazione a seguito di una difficoltà a contattare l'ospite che doveva seguire in questa parte, e allora noi proseguiamo con altre notizie che riguardano la giornata di oggi. Arriva la proroga della moratoria sui mutui delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'emergenza Covid. La bozza del decreto agosto, che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nel fine settimana, prevede che la scadenza del 30 settembre 2020 slitti al 31 gennaio 2021. Per il rinnovo dell'ammortizzatore di emergenza Covid sono previsti altri 10 miliardi tra il 2020 e il 2021. Un altro miliardo arriva per la ripartenza della scuola in sicurezza. E parliamo proprio di scuola, siamo collegati con, e quindi variamo la scaletta appunto per qualche difficoltà di collegamento telefonico, siamo collegati con Eugenio Bruno, collega del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Eugenio, le notizie che riguardano la scuola oggi sostanzialmente sono due, e cioè l'annuncio della ministra Azzolina, oltre 50.000 posti in più tra docenti e ATA, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. Questa è la prima notizia. Sì, te lo confermo, è una notizia, diciamo, la ministra ha ribadito una notizia di qualche settimana fa. Quest'anno, per gestire l'emergenza, quindi per sdoppiare le classi dove non ci saranno aule abbastanza capienti, quindi serviranno più insegnanti, ci saranno 50.000 supplenti in più, gran parte dei quali saranno docenti, il resto bidelli, collaboratori scolastici, altre figure che nelle scuole comunque servono. Poi l'Azzolina ha detto anche che con il decreto rilancio è prevista la possibilità di derogare al numero di alunni per classe per ridurlo progressivamente, quindi basta con le cosiddette classi pollaio, ce la faranno? Allora guarda, una prima deroga dovrebbe arrivare con i 50.000 assunti, o meglio supplenti da assumere, di cui abbiamo parlato prima. La stessa ministra ha detto però che non ci si fermerà qui, perché nel decreto agosto, e te lo confermo dalle bozze che anche io ho visto, è previsto uno stanziamento di un altro miliardo per la scuola in vista di settembre. Servirà a fare questo miliardo soprattutto due cose: in minima parte servirà a pagare gli affitti dei locali alternativi alle aule, perché diciamo in vista di settembre i grossi problemi sono due: c'è un problema di spazio, perché soprattutto nei centri storici delle grandi città gli edifici scolastici hanno aule non così capienti, quindi bisognerà in alcuni casi rivolgersi all'esterno. quindi strutture comunali o strutture del terzo settore, e con le risorse del decreto agosto si pagheranno gli affitti e le utenze di queste strutture, e poi arriveranno ulteriori assunzioni, sempre di supplenti e sempre per ridurre il numero di alunni per classi e limitare le classi con l'AIFA. L'altra notizia di oggi riguarda la fornitura di banchi. È scaduto il termine per presentare le offerte, appunto la gara si è chiusa oggi. Ci sono 14 aziende tra italiane e straniere che hanno partecipato al bando, direi un buon risultato. Inizialmente si pensava che addirittura non si presentasse nessuno. Sì, diciamo il rischio che il bando andasse deserto era stato paventato da più parti, anche dai produttori che hanno spesso sottolineato le ristrettezze dei tempi previsti poi per la consegna. Le offerte invece sono arrivate 14 offerte, alcune anche dall'estero. Adesso bisognerà aspettare il 12 agosto, quando verranno proclamati i vincitori. Ricordiamo, dovranno consegnare 3 milioni di banchi monoposto. Secondo te è possibile? Secondo te è materialmente possibile? È possibile, materialmente non lo so, estremamente difficile, anche per i tempi, perché 12 agosto aggiudicazione, 8 settembre la consegna, al massimo prorogabile al 12 settembre. Quindi io la vedo dura. È appunto, no, perché che arrivino 3 milioni, tutti in tempo, 3 milioni. Sì, c'è anche un problema poi di consegna, di stoccaggio, cioè sono problemi enormi quando si ragiona con questi numeri. Certamente. E poi ci sono domani le linee guida, no? Doveva essere oggi e c'è stato un rinvio. C'è un altro tassello, è in arrivo, il protocollo per la sicurezza, che è un memorandum da scrivere con i sindacati, così come è stato fatto quando dopo il lockdown sono ripartita l'attività in molte fabbriche. Così allo stesso modo per la scuola, sindacati e ministra si siederanno al tavolo e fisseranno una serie di principi, molti li conosciamo perché sono emersi già in queste settimane. È comunque un atto politico, cioè sottoscriverlo significa che da qui a settembre si prova a remare tutti dalla stessa parte. Una pace sociale. Sì, esattamente così. Grazie anche alle risorse in più e al personale in più di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi tutto torna. Grazie Eugenio Bruno del Sole 24 Ore per averci reso edotti delle ultime novità per quanto riguarda la vicenda scuola, una vicenda che riguarda milioni e milioni di famiglie. E ora ripristiniamo, per così dire, l'ordine della scaletta. Dicevamo dovevamo parlare di Piacenza, della caserma Levante, e ora siamo in grado di collegarci con Giorgio Lambri, capo cronista della Libertà, al giornale di Piacenza. Lambri, buonasera. Buonasera a voi. Allora, come dicevo prima, nel tentativo di istituire questo collegamento telefonico che poi è saltato, dicevo, si parlava oggi di una possibile svolta con il coinvolgimento di altri carabinieri. Abbiamo atteso dalle agenzie un eventuale sviluppo, ma questo sviluppo almeno finora non c'è stato. Ma in realtà si tratta di un coinvolgimento che riguarda i ruoli intermedi, cioè i ruoli che non avrebbero partecipato direttamente alle malefatte dei sei militari della caserma, ma in qualche modo, secondo l'accusa, li avrebbero coperti attraverso atti falsi, attraverso forse omesse denunce, questo tipo di fattispecie. Poi però c'è anche l'altro aspetto che verrà approfondito domani dal GIP attraverso gli interrogatori, e cioè quello della vigilanza da parte degli organi superiori. Per esempio domani verrà sentito il maresciallo Papaleo, che oggi è maggiore, all'epoca maresciallo che è Piacenza, che con la sua fu per anni comandante qui del reparto operativo, e con la sua denuncia ha fatto partire praticamente tutta questa inchiesta. Lui adesso è comandante del reparto operativo però a Cremona, e poi domani l'altro verrà sentito l'ex comandante Piras, che fu comandante prima durante questi fatti, prima del comandante Savo, che era comandante fino a pochi giorni fa. Piacenza come sta metabolizzando questa storia? Ma devo dire che all'inizio c'è stata una grande emozione e anche un grande sgomento, perché comunque questa, come ho già detto, è una città che ha un profondo senso dell'istituzione, un profondo senso anche della della legge e della denuncia, è sempre in testa alle classifiche per le denunce di reati, è sempre tra le prime d'Italia, quindi c'è stato un grande sgomento. Devo dire che però c'è stata anche molta, come dire, il fatto che siano stati per esempio cambiati completamente tutti i vertici della casa del comando provinciale piacentino è stata una cosa che è stata molto commentata molto, molto, molto positivamente. Dall'altra parte c'è un altro aspetto, perché questa caserma, come forse avevo già detto in un altro collegamento, insiste in una zona che è una delle zone più problematiche di Piacenza, è quella del quartiere multietnico intorno alla stazione ferroviaria, dove lo spaccio e comunque in questi ultimi anni aveva conosciuto anche un rallentamento, comunque si era spostato, quindi adesso arrestati questi, molti cittadini, per esempio scrive il nostro giornale, non è che adesso torneranno a spacciare in questi giardini pubblici dove giocano i bambini eccetera, quindi c'è anche questo aspetto, se vogliamo anche abbastanza prosaico della cosa, ma comunque molto reale. La città è una città di suo abbastanza fredda e quindi non ci sono mai grosse manifestazioni, non è tante proteste, anche le lettere che noi riceviamo al nostro giornale, noi abbiamo una rubrica libertà di parola che raccoglie ogni giorno centinaia di proteste, sono molto misurate comunque anche su questo tema. Ecco, nei giorni immediatamente successivi agli arresti qualcuno ipotizzò anche fenomeni non proprio dello stesso tenore, però di dubbia liceità in altre caserme con il coinvolgimento di altre forze di polizia, poi però non è emerso nulla di particolare. No, finora. Allora, allo Stato non è emerso niente, comunque c'era, diciamo che si fece riferimento soprattutto ad un precedente storico che è quello di 8 anni fa, quando qui a Piacenza, voi direte, mamma mia, proprio la città in cui venne smantellata praticamente gran parte della sezione narcotici della squadra mobile, per ragioni diciamo analoghe, ecco, diciamo non proprio le stesse fattispecie, non c'erano le torture, non c'erano queste violenze, però insomma c'era un discorso di spaccio o comunque di stupefacenti non chiaro, che portò poi a condanne durissime per diversi investigatori della squadra mobile locale. Ora ti chiedo un flash sull'emergenza sanitaria, la questione contagi da voi come si sta assestando? Ecco, qui purtroppo devo dire c'è un risveglio veramente preoccupante che si attesta non solo in città ma soprattutto in provincia, ad esempio è domani su Libertà, parleremo di questa emergenza a Bobbio, che è la città dove si svolge il nostro Festival del Cinema, una città d'arte che credo sia conosciuta un po' in tutta Italia. Il borgo più bello d'Italia, no? Non è stato eletto il borgo più bello d'Italia. Esattamente. C'è stata una paziente positiva, è stato chiuso l'ospedale, le visite, è stato rinviato un film dei Manetti Brothers che dovevano svolgersi, doveva essere girato lì a Bobbio perché 4 della troupe erano positivi. Quindi c'è un po'. Oggi ci sono, per esempio, il rendering di oggi ci parla di 8 nuovi casi positivi di cui uno ricoverato, quindi c'è un risveglio del Covid che preoccupa, perché come sapete qui abbiamo avuto 1200 morti e c'è veramente molta preoccupazione. Questa non è mai stata zona rossa, c'è stata tanta polemica per il fatto che diciamo una città che si trova a 8 km da Codogno e sulla quale insistono molti lodigiani per lavoro e per tante ragioni non è stata proclamata subito zona rossa, e questo ha creato forse un aggravio della situazione, se vogliamo. Grazie Giorgio Lambri, capo cronista della Libertà di Piacenza, grazie. Torneremo chiaramente a coinvolgerti se ci saranno sviluppi da questa inchiesta sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza. Sono quasi le 20, ci fermiamo un attimo, poi torniamo per l'ultima parte, o meglio per la penultima parte di Effetto Notte Estate. Effetto Notte Estate. E alle 20 in punto il punto sulle notizie del giorno. A Beirut 135 morti, 5.000 feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. I dispersi sono ancora decine, oltre 300.000 persone senza casa, danni per 3 miliardi di dollari. Ormai certo, a provocare le esplosioni è stato un carico di nitrato di ammonio di oltre 2.700 tonnellate che era conservato in un magazzino nei pressi del porto. L'esplosivo era stato confiscato 6 anni fa dopo essere stato sequestrato su un mercantile. Torna a salire il numero dei contagi nelle ultime 24 ore, 384 nuovi casi, rispetto a ieri sono raddoppiati, raddoppiate anche le vittime da 5 a 10. Solo una regione senza nuovi casi è la Valle d'Aosta. Arriva la proroga della moratoria sui mutui delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'emergenza Covid. La bozza del decreto agosto, che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nel fine settimana, prevede che la scadenza del 30 settembre 2020 slitti al 31 gennaio 2021. Per il rinnovo dell'ammortizzatore di emergenza Covid previsti altri 10 miliardi. Tra il 2020 e il 2021 un altro miliardo arriva per la ripartenza della scuola in sicurezza. Oltre 50.000 posti in più tra docenti e ATA, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria, è quanto prevede l'ordinanza firmata dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, che stamani ha incontrato i rappresentanti delle regioni. E sono 14 tra italiane e straniere le aziende che hanno partecipato al bando europeo indetto dal commissario per l'emergenza Arcuri per la fornitura di un massimo di 3 milioni di banchi monoposto in vista della riapertura dell'anno scolastico. Domani partirà la procedura di valutazione delle varie offerte e la sottoscrizione dei contratti avverrà entro il 12 agosto. L'inchiesta sugli appalti per le strutture Covid in Campania. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'istituto zooprofilattico di Portici, in provincia di Napoli, che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla regione Campania l'esecuzione dei tamponi. Il decreto di perquisizione riguarda il direttore della struttura, che è indagato. Anche in questo caso i PM contestano il reato di turbativa d'asta. Quasi 60.000 firme in 2 giorni per chiedere al ministro dell'Ambiente Costa di far restare l'eremita guardiano di Budelli, Marco Morandi, sull'isola nota per la sua spiaggia rosa. La petizione è stata lanciata in rete e continua a ricevere sottoscrizioni. L'uomo oggi è considerato un inquilino abusivo perché occupa senza alcun titolo un bene dello Stato. Quando io sono andato alla radio, il direttore generale radio Piccone Stella mi chiese: bene, ma lei che cosa vorrebbe fare? E io dissi: io vorrei fare le interviste. Era il 1947, era appena finita la guerra, c'erano nell'aria, voglio dire, partiti che inquietanti anche. E quando il direttore del giornale radio si sente dire da un pivello come me che vorrebbe fare le interviste, si allarma. Mi ha detto: scusi, ma qual è? Interviste a chi? E io lo calmai subito, dico: a chiunque. E lui, sconcertato, mi disse: come a chiunque? Ma che senso ha fare le interviste a chiunque? Dico: ha un grande senso, perché non si esce mai completamente indenni dall'avere parlato con una persona che non ha mai trovato ascolto nella sua vita da parte di chi potrebbe essere nella condizione di aiutarlo. Era una metafora la mia, però lui capì al volo, disse: adesso ho capito, faccia le interviste. E io ho cominciato a fare le interviste. È la voce di Sergio Zavoli e in queste parole c'è il senso di un mestiere, di una passione, di un impegno. Parole pronunciate 2 anni fa a Fiuggi nella prolusione al corso di preparazione all'esame di idoneità professionale organizzato dall'Ordine dei giornalisti. Come hanno annunciato stamane i giornali radio, Sergio Zavoli ieri sera è morto a Roma. Il 21 settembre avrebbe compiuto 97 anni. Un maestro per più generazioni di giornalisti, una carriera lunghissima tutta in Rai, dal giornale radio alla televisione, direttore con direttore, fino a diventarne presidente. Ha raccontato l'Italia, piccole e grandi storie dentro un'unica grande storia collettiva della quale è stato testimone. Zavoli è stato anche parlamentare per 17 anni al Senato, dal 2001 al 2018, eletto nelle liste dei DS, Ulivo e Partito Democratico. Walter Veltroni, buonasera. Buonasera. Marta Cagnola, buonasera. Buonasera, buonasera. Veltroni, attenda un attimo, le faccio sentire un audio. Presenti il sottosegretario Tupini e il sindaco di Roma si proclamano gli assi della Radio 51, ai quali Ridomi porta il saluto della RAI. Letto da Ugolini il messaggio di Orlando per la Federazione della Stampa, che coi cronisti romani ha istituito il premio. Gigli fa l'appello per offrire un microfono anche stasera, ma d'argento. A Corrado Mantoni come annunziatore. A Brancacci e Morbelli autori di rivista. A Filippini direttore d'orchestra di musica leggera. Alla Fiordaliso cantante di musica leggera. A Sergio Zavoli radiocronista. A Giulini direttore di orchestra sinfonica. Ribalta di Assi. E ora il sindaco consegna il microfono all'audiocronista sportivo Ferretti. Spataro al trio di Trieste. Coppa Agis per la catena della fraternità a Veltroni. Coppa Radio Campidoglio a Giovanni Gigliotti. Allora Veltroni, un ricordo privato, c'era anche suo padre. La storia di Sergio e quella di mio padre sono state intrecciate per il breve percorso che mio padre ha fatto. La storia è bella, è persino poetica, Sergio me l'ha raccontata mille volte. Lui stava facendo la radiocronaca, ma l'espressione è sbagliata, del derby Ravenna-Rimini, e la sua voce, che non andava in radio, veniva amplificata sulla piazza di Rimini, dove c'erano i tifosi che aspettavano di sapere come stesse andando. Passò di lì un funzionario della RAI, credo il direttore della sede di Venezia, che rimase colpito dal modo in cui questo ragazzo raccontava le gesta dei calciatori e lo segnalò a mio padre. Mio padre mandò un telegramma a Zavoli dicendogli di presentarsi a Roma per essere ascoltato, e qui ci fu il primo colloquio tra loro e cominciò quella storia del rapporto tra queste due famiglie, diciamo, che poi è continuato. Mio padre si è fermato presto, 1956, e poi però con Sergio è continuata prima con mia madre un'amicizia, un affetto che lui aveva per mio padre, che trasferì su mia madre, su noi ragazzi, e poi quando io sono cresciuto e mi sono trovato nella condizione di avere responsabilità ci siamo ritrovati, però con lo stesso affetto che probabilmente avevano lui e mio padre. Marta Cagnola, un pezzo di storia della radio e della televisione, autorevole, sobrio, attento ai particolari. Sì, prima della radio e poi della televisione aveva esordito appunto nel 1947 nella redazione Radio Cronache, formata da giornalisti che poi davvero avrebbero fatto la storia della radio italiana sotto la guida preziosa di Vittorio Veltroni, e poi è arrivato nella TV caratterizzandola per delle inchieste, ma non solo, anche nello sport, perché come diceva in questa intervista bellissima che hai riproposto dal corso di Fiuggi, anche questo è molto bello, il fatto che lui spiegasse il mestiere ai giovani aspiranti giornalisti, lui amava intervistare e ha fatto delle grandissime interviste, non solo nelle trasmissioni che hanno fatto la storia anche dell'Italia, come La Notte della Repubblica, che ha dato per prima alla fine degli anni Ottanta una visione degli anni di piombo che prima di quel momento non eravamo. Ma lui amava intervistare anche le persone più semplici, anche le persone più buffe, anche le persone che magari non sembrava che potessero fare notizia. Lasciami leggere solo qualche riga. 30 luglio 1966, scrive sul Giorno un altro monumento che è Gianni Clerici, che racconta del processo alla tappa dal 20 maggio 1962. La trasmissione che ha riportato l'interesse per il ciclismo alla pari col calcio ha spinto fabbriche a sospendere il lavoro, maestri a interrompere la lezione, giornalisti un tempo ritenuti dignitosi a fare la danza del ventre per parteciparvi. Che Zavoli scuota la testa, questo non toglie che il suo nome resti legato al processo. Che si lamenti, ripeta che l'anno prossimo non ci ricascherà più, che dopo i primi giorni la noia è insopportabile e che insomma il ciclismo tutto sommato non gli piace. Tutto questo non vuol dire che dentro a Zavoli il processo alla tappa non tenga un posto ben definito. Processo alla tappa, scrive Clerici, è un vero e proprio spettacolo, soprattutto ha un presentatore autore che non manca di iniziare ed è capace di stimolare la scena. Ecco, tutto questo prima di Sergio Zavoli alla televisione italiana non c'era. Veltroni, prima si citava quel capolavoro d'inchiesta che fu La Notte della Repubblica. Il merito di Zavoli fu quello anche di spezzare quella cortina di silenzi, di imbarazzi che aleggiava sugli anni di piombo. Sicuramente sì, fu il primo a cercare una ricostruzione sistematica, come era stato il primo a farlo con Nascita di una dittatura, quando aveva investigato le ragioni per le quali questo paese era caduto nella notte del fascismo. In tutti e due i casi, però, a fianco all'intenzione storico-giornalistica c'è sempre una discontinuità e un'innovazione di carattere estetico. Nella Nascita di una dittatura c'era una persona sul palco e c'era un sistema di riprese che era del tutto innovativo per quel tempo. In Notte della Repubblica c'era quella meravigliosa idea quasi teatrale del buio, quasi una sacca amniotica, no? Che circondava l'intervistato con un occhio di buio e con una luce puntata sul suo viso, e delle interviste sempre con la voce fuori campo, delle quali erano importanti le parole ma erano anche importanti i silenzi. Quando appunto nelle scuole di giornalismo si studierà il lavoro di Sergio Zavoli, si dovrà guardare come sceglieva le parole ma anche come selezionava i silenzi. Qualcuno ha scritto un pilastro del servizio pubblico. Beh sì, lui si è identificato con la RAI, la sua vita è identificata con la RAI fino alla presidenza, ha diretto il giornale radio, ha curato grandi programmi come TV7, ha fatto grandi servizi e si è occupato di cose molto importanti, si è occupato di sport. Poi naturalmente la RAI con lui dopo la presidenza non è stata sufficientemente, come posso dire, attenta. Però lui quelle tre lettere ce le aveva scritte nel cuore e alla RAI ha dedicato gran parte della sua vita, della sua passione e anche della sua idea di che cosa fosse il giornalismo, specialmente il giornalismo del servizio pubblico. Sergio non gridava, Sergio non urlava, Sergio non imponeva la sua opinione, ascoltava, cercava. Misurava e sceglieva parole e immagini, non aveva paura delle emozioni, era una persona curiosa che è un pregio che secondo me un po' si sta perdendo. Zavoli parlamentare, Veltroni? Ma è stato un parlamentare, intanto è stato il parlamentare della sua città, del luogo che lui più amava e nel quale siamo stati anche insieme tante volte. E poi è stato un parlamentare molto attento, operoso, naturalmente diciamo col prestigio che gli derivava dalla sua storia, per cui non era senatore a vita, era un senatore eletto nelle liste del partito quando i partiti portavano in Parlamento persone così, e lui ha onorato fino in fondo, fino al momento in cui prima è stato presidente della commissione di vigilanza e poi alla fine si è occupato della biblioteca del Senato, perché voleva che quel tesoro, diciamo, di memoria che lì racchiuso fosse valorizzato nel modo giusto. È stato un grande senatore. Marta, da collega a collega, confidati, qual è la caratteristica che di Zavoli in qualche modo ti ha intrigato sempre di più? Io sono minuscola, sono davvero minuscola, mi sembra veramente presuntuoso dire una cosa del genere, ma io sono così affascinata dalla storia di questi grandi pionieri, sia dei corsari della TV, quelli che con Filiberto Guala, poi diventato padre trappista, hanno costruito una TV pedagogica che ora non c'è più, e da questi grandi maestri delle prime radiocronache. Io non posso che alzare le mani e pensare al grande lavoro che hanno fatto in due mezzi, la radio e la TV, che in Italia erano ancora tutti da inventare dopo un periodo storico estremamente difficile. Oggi ho dedicato molto tempo a riguardare tante trasmissioni realizzate da Sergio Zavoli. Ecco, forse adesso mi sento solo di ripassare, riguardare e anche rileggere. Poi ti dirò, ma adesso è il momento per me di tornare a studiare. D'accordo, da imparare da personaggi come questo per tutti noi ci sarà sempre. Grazie a Walter Veltroni, grazie per essere intervenuto in Effetto Notte Estate. Non c'è più. Grazie a Marta Cagnola, che è intervenuta con Walter Veltroni, per ricordare Sergio Zavoli. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto notte estate. È stato in fuga per un'infinità di chilometri e abbiamo assistito al suo calvario. A un certo momento ci siamo avvicinati con la nostra macchina, Liesove era in difficoltà. Con un cinismo forse degno di miglior causa, ma col proposito segreto di rendere onore al lavoro di questo ragazzo e di tutti i ragazzi che fanno fatica andando in bicicletta, io ho martirizzato questo giovanotto. Una bella soddisfazione, Liesove? Mi prendono? No, ma ancora una quindicina di minuti sul gruppo. No, non ci credo. Ma vuole che le racconti delle bugie, le garantisco, ha una quindicina di minuti sul gruppo. Non riesco a parlare, la città come viene a piangere. Mi prendono dietro. Non la prendono, ancora 7 minuti, Liesove, forza. Se salite adesso. È finita la salita, Liesove. Guardi, l'ultimo sacrificio poi è fatto. 2019, Dario Ricci, buonasera. Buonasera, buonasera. E allora, che pagina di storia della televisione stiamo ripercorrendo? Beh, è la voce inconfondibile per il timbro, la chiarezza, stentoreo, era quella di Sergio Zavoli, no? E certo. Che, come abbiamo ricordato nel corso di questa giornata così particolare, ebbe anche alcune pagine straordinarie della sua carriera nello sport. No, no, certo, Dario, abbiamo già raccontato e ricordato. Beh, allora diciamo Andrea che siamo nel pieno della Belluno Vittorio Veneto, ecco, tappa, penultima ecco. Tappa del Giro d'Italia del 66, in fuga va Lucillo Liesove, un neoprofessionista allora, oggi un signore ottantenne di Breganze nel Vicentino, va in fuga e Liesove, neoprofessionista, pensa in carriera vincerà una sola gara e 2 volte sarà maglia nera al Giro d'Italia, arriva ad avere 38 minuti di vantaggio sul gruppo. Zavoli, che fa da quel grande giornalista che era, coglie l'occasione per raggiungerlo con la sua ammiraglia e intervistarlo, chiedergli tutto della sua vita, delle sue origini contadine, della sua umiltà, e alla fine, come abbiamo sentito, ne diventa quasi compartecipe, no, della sorte, perché piano piano Liesove viene ripreso e viene raggiunto e superato sul traguardo da Pietro Scandelli. E però nella storia, come Dorando Pietri, rimane la leggenda di Liesove come il più celebre dei vinti, no? Come un malavoglia del ciclismo che incarna le persone umili e coloro che campioni non saranno mai negli albi d'oro, ma che probabilmente con il loro sacrificio e il loro sforzo lo sono nella vita, e erano proprio questi i personaggi che Zavoli ci ha raccontato nella sua carriera, anche nello sport. Un altro mondo, un altro ciclismo, altre storie, altri personaggi, appunto era una maglia nera recidiva, mi pare, no? Oltretutto. Sì, l'è stato 2 volte, anzi tra l'altro verrà ripristinata proprio per lui la maglia nera, perché sarà ultimo in classifica nella 50esima edizione del Giro d'Italia, e quindi quella maglia nera che ha avuto in Malabrocca uno dei suoi massimi interpreti verrà ripristinata per l'occasione, Liesove la indosserà, ma insomma era il ciclismo in cui per ottenerla quella maglia nera ci si nascondeva nei bar, no? Aspettando che il gruppo andasse in fuga, e quindi per essere certi dell'ultimo posto, insomma. Quando essere perdenti poteva anche essere qualcosa di metabolizzabile, aveva ancora un significato, anzi sì. Aveva tanti significati. E allora parliamo ora di calcio, non possiamo farne a meno, perché stasera inizia la maratona delle coppe europee. Tra poco più di mezz'ora l'Inter inaugura, diciamo così, questa maratona, no? Eh sì, dall'altro in realtà già è iniziata, perché ci sono 2 partite sempre degli ottavi di Europa League che stanno per concludersi. Siamo intorno al 70esimo di gioco a Copenaghen. Il Copenaghen è in vantaggio per 3-0 sui turchi del Başakşehir, e quindi in questo caso, pur avendo perso all'andata per 1-0, sarebbe qualificato al turno successivo, mentre 0-0 tra Shakhtar Donetsk e Wolfsburg, risultato che qualificherebbe in questo caso gli ucraini. Ma alle 21, e ricordiamo particolarità in questo caso della sfida dell'Inter e quella di domani della Roma. A Duisburg si gioca in gara secca e in campo neutro, cioè in Germania, Gelsenkirchen, nell'ottavo di finale di Europa League, e vede i protagonisti nerazzurri contro gli spagnoli del Getafe. Chiaramente queste novità sono frutto, uno dei frutti amari della pandemia, che ha reso impossibile disputare per mancanza di tempi tecnici l'andata e il ritorno come di consueto. Quindi Inter e Roma giocheranno in partita secca con tutti i rischi del caso. C'è da dire dal punto di vista tecnico che il Getafe era stata rivelazione della stagione spagnola, soprattutto prima della pandemia, nella ripresa della Liga è uscito dalle prime quattro, ma rimane una squadra tosta, rognosa, senza grandi stelle, ma con grande intensità agonistica. E dopodomani c'è la Champions, Juventus-Lione, partita fondamentale, no? Direi di sì, perché anche quella chiaramente di fatto è una finale per la Juventus. Ricordiamo che in quel caso si giocherà a Torino invece e si ripartirà dall'1-0 per i francesi che era stato ottenuto nell'andata a Torino a Lione poco prima del lockdown e dell'interruzione delle competizioni europee. È una partita chiaramente, neanche a dirlo, decisiva per il futuro della Juve, ma soprattutto anche molto probabilmente per il futuro di Sarri, che come abbiamo detto e come abbiamo visto ha vinto in modo quanto mai con passo quanto mai incerto il titolo. In questi giorni si stanno susseguendo voci sul suo futuro, su quello di Ronaldo. L'unica buona notizia potrebbe essere il quasi certo recupero di Dybala. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio, quindi sia lui sia poi sabato Insigne nel Napoli, ecco. Invece a Barcellona appunto dovrà ribaltare l'1-1 dell'andata al San Paolo. Ecco, due stelle, due giocatori decisamente importanti per bianconeri e partenopei dovrebbero essere entrambi in campo e speriamo da protagonisti. Abbiamo ancora un minutino, le ultime notizie sul calciomercato. Oggi non ho visto nulla di particolare, no? No, oggi in realtà però è stata la Federcalcio a dare i numeri, nel senso che ha reso noti i numeri del report sul calcio italiano che si conferma azienda quanto mai significativa per il PIL del paese, ma che ha un aumento del fatturato, però vede anche corrispondere un aumento, in questo caso in modo più preoccupante, decisamente più alto del costo del lavoro, cioè degli ingaggi dei calciatori, e senza riuscire ancora a individuare altre fonti di reddito stabili e certe e solide rispetto ai diritti TV. Quindi tendenze alla crescita sì, ma anche problemi endemici che si fa fatica a superare, e questo sicuramente non è l'anno più adatto per far questi conti. Certamente l'anno particolare, un tempo sospeso come diciamo dall'inizio di Effetto Notte Estate, sì. Chiaramente sperando che in fondo a questo periodo di sospensione si torni alla normalità, all'agognata normalità. Grazie Dario Ricci per questo aggiornamento serale ormai consueto sul le vicende pallonare e non sole. Siamo arrivati in fondo a questa puntata di Effetto Notte Estate, in regia come sempre Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo con Effetto Notte Estate domani a partire dalle 18:30.